Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1829. Eletto Papa Francesco Saverio Castiglioni con l'appoggio determinante della Francia, sarà Pio VIII. Grecia, un altro passo verso l'indipendenza con la pace tra russi e turchi. Le università britanniche si sfidano sull'acqua, gara di canottaggio tra Oxford e Cambridge. Altro successo per Gioacchino Rossini, trionfo per il Guglielmo Tell a Parigi. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Ci sono voluti 6 mesi di conclave, alla fine la fumata bianca parla francese. L'appoggio di Parigi è stato infatti determinante per l'elezione a Papa di Francesco Saverio Castiglioni, che ha preso il nome di Pio VIII. L'obiettivo della monarchia d'Oltralpe, a quanto si sussurra in ambienti vaticani, è avere un Papa di transizione. Il fatto che Castiglioni sia cagionevole di salute fa pensare a Parigi che la scelta sia caduta sull'uomo giusto. Di certo non vuole che il suo pontificato sia dimenticato, è riuscito già ad ottenere dagli inglesi l'approvazione di una legge che consente ai cattolici di sedere in Parlamento. Passo decisivo nelle ambizioni di indipendenza del popolo greco. Da una parte c'è l'impero ottomano che ha riconosciuto alcune forme di autonomia, ma soprattutto dall'altra parte la pace di Adrianopoli che pone fine alla guerra con i russi. Oltre alle molte concessioni territoriali alle quali Costantinopoli è stata costretta, nel trattato vi è l'accettazione del protocollo anglo-franco-russo che prevede la creazione di uno stato greco, retto da un principe ereditario formalmente nominato dal sultano. E ora parliamo di sport. La Gran Bretagna impazzisce per una gara tra università. Cosa non si sono inventati gli studenti inglesi pur di non studiare? La notizia arriva fresca da Londra. Sentite un po'. Uno studente dell'università di Cambridge, tale Charles Merivale, comincia a discutere con un suo amico, Charles Wordsworth, iscritto ad Oxford. «La mia università è più bella. No, siamo più bravi noi. No, noi altri siamo più forti. Insomma, si sa come vanno a finire queste cose. Soprattutto se di mezzo c'è una certa vena poetica in famiglia. Quel Charles, infatti, è il nipote del celebre poeta inglese William Wordsworth. Alla fine, quindi, come decidere chi tra Cambridge e Oxford sia all'università più forte? Figurarsi se in una tensione accademica con la voglia che avevano quei due di studiare. No, meglio una bella gara di canottaggio. 8 vogatori e un timoniere su una barca con la maglia azzurra di Cambridge, altrettanti su un'altra barca con la maglia blu di Oxford, a sfidarsi per oltre 7 chilometri lungo il Tamigi. La gara si è svolta pochi giorni fa e sulle due sponde del fiume, dicono i giornali inglesi, sono accorsi in più di 20.000. Ha vinto Oxford, ma Cambridge ha già chiesto la rivincita per il prossimo anno. Dario Ricci, Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ancora un trionfo per la musica italiana, il pubblico parigino è rimasto incantato dall'opera di Gioacchino Rossini, Guglielmo Tell, che stiamo sentendo in sottofondo. È tratta dall'opera teatrale del poeta tedesco Friedrich Schiller, racconta la storia di quello che è considerato l'eroe nazionale svizzero, una figura a metà storica e a metà leggendaria, che dal 300 è simbolo della lotta contro l'oppressione austriaca e quindi della lotta per l'indipendenza. È tutto sul nostro sito, potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano. Come sempre ci sono immagini e notizie, visitate il nostro blog dove trovate approfondimenti, la nostra pagina Facebook per tenervi in contatto con noi, lasciateci un commento là o fatelo prendendo penne e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.